la luce che hai in me, quell'impulso di blu che abbandonai quando l'inverno toccai. Oggi mi cerco di più, ho imparato ad amare i perché, a creare follie, sogni, empatie, tutto dipende da me. Nei disegni di un bambino nasce l'ispirazione, accende il cuore come non immaginavo. Se l'istinto di un bambino punta sempre dritto al sole, puoi sbattere le ali per volare. Sono in viaggio verso il mare, ti aspetto per cantare. Qui non sento più il dolore, c'è un mondo di colori che non può finire. Oggi respiro di più, scrivo appunti sul diario di Dio, e domani chissà li leggerai, leggero ti ascolterai. Nei disegni di un bambino c'è la voglia di parlare, di scrivere la storia senza mai sparare. Se l'istinto di un bambino punta sempre dritto al sole, il brivido di un sogno ti potrà sfiorare. Sono in via.